Spero di non essere frainteso, ma mi sembra fuori luogo stupirsi e scandalizzarsi perché viviamo in una società corrotta e sessualmente depravata. Non è una novità. È vero che vi sono ondate di depravazione più o meno marcate, ma che la società in generale sia schiava di passioni sessuali è un dato di fatto non difficile da dimostrare. Solo grazie all'informazione quotidianamente e così ampiamente divulgata, sappiamo che 10 milioni di bambini sono vittime dell'industria del sesso, che vi sono milioni di omosessuali e di prostitute, senza contare che ogni giorno milioni di persone sposate tradiscono il loro partner. La corruzione e la depravazione sessuale ci è sempre stata e sempre ci sarà. Questo dato di fatto dovrebbe far riflettere. A mio avviso questa realtà è una sberla morale. A chi, governi e moralisti, ogni giorno fa una campagna in favore di una sessualità responsabile e sana. Evidentemente, qualcosa non va. Ognuno dà una sua spiegazione al proprio fallimento che, ovviamente, non lo responsabilizza personalmente, mentre i figli di Dio hanno subito una risposta scontata e biblica. La depravazione sessuale è il risultato della corruzione dell'essere umano. Adamo ed Eva hanno peccato, di conseguenza tutta la generazione della razza umana è corrotta, incapace di compiere il bene. Dal punto di vista biblico, una tale affermazione non fa una piega, ma ugualmente risulta insufficiente a spiegare perché la sessualità sia al vertice della corruzione. Credo che gli inviti ad avere una sessualità responsabile siano come un buco nell'acqua, proprio perché non si è dato abbastanza valore al rapporto esistente tra la sessualità e la ragione. Nel limite delle mie capacità, mi accingo nel tentativo di considerarne l'interdipendenza. In noi altri parliamo del sesso. Il sesso è sesso. Punto e basta. Comprendo come questa definizione sia un pugno nello stomaco, perché anch'io ho una simile reazione. Ma dobbiamo umilmente chinarci di fronte alla realtà che il sesso è uno degli istinti dato dal creatore o, secondo gli atei, dalla natura. Come esistono istinti come quello dell'autoconservazione, del possesso, dell'aggressività, del potere, dello sviluppo, così abbiamo l'istinto sessuale. Questo, il fatto cioè che sia un bisogno istintivo, induce alcuni a volerlo soddisfare come vogliono e quando vogliono. E in questa ottica che dobbiamo considerare la legge di Dio. Non avrai relazioni carnali con un uomo come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Non ti accoppierai con alcuna bestia per contaminarti con essa, né alcuna donna si accosti ad una bestia per accoppiarsi con essa. È una perversione ripugnante. Levitico 18:22-23. La sessualità di per sé è solo sessualità, per cui il suo bisogno intrinseco è il soddisfacimento, nulla di più. Conoscendo l'Eterno Dio, questa inclinazione naturale ha dovuto dare ordini al suo popolo in merito al comportamento sessuale. Notiamo, al suo popolo, non ad altri popoli. Se tale comandamento fosse stato rivolto ai popoli pagani, era più che comprensibile. Forse per alcuni moralisti tali ordini sono inutili. Come? Chi avrebbe rapporti sessuali con uno del proprio sesso? Chi andrebbe da una bestia per soddisfare le proprie esigenze sessuali? A mio avviso simili interrogativi sono solo moralistici. Se il sesso è un istinto come tale non è morale come del resto ogni altro istinto. A me non piace il cetriolo, né l'odore né mangiarlo, e potrei non capire come faccia piacere agli altri. Solo perché una cosa non piace a me, non necessariamente non deve piacere agli altri. Ecco perché ciò che è disgustoso per alcuni, per altri, è più che buono. E così è del sesso. Nel regno animale spesso i figli si accoppiano con i genitori o fratelli e sorelle. Perché? Perché è una esigenza sessuale, nulla di più. Ma l'uomo è un essere morale, mi direte. Egli non può fare certe cose, che non possa, non è vero, perché lo fa. Che poi farlo sia morale, questo deve essere messo a fuoco. Se il sesso fosse considerato solo come un istinto naturale, saremmo in grado di affrontare la piaga dell'immoralità sessuale senza moralismi e con più efficacia. Come fare? Cosa fare allora? per frenare l'immoralità sessuale. Non credo che ci sia una formula o soluzione giusta, perché in tutti questi millenni gli uomini l'avrebbero trovata, ed io non mi sento superiore a nessuno. Ma credo che due R possano essere molto efficaci: regole e ragione. La stessa vita ci insegna che la società viaggia su delle regole, e senza di esse non può sussistere nessuna società, famiglia e neanche persona. Ai bambini non spieghiamo la ragione per cui devono andare a scuola, perché è indispensabile lavarsi le mani e i denti. Noi imponiamo a loro delle regole e, in seguito, quando saranno in grado di comprendere, spieghiamo le ragioni delle nostre regole. Così è del sesso. È veramente inutile spiegare, soprattutto ai ragazzi, la sessualità nell'ottica della morale, perché non sono in grado di comprendere. Per spiegare questo, ho l'immagine di un giaguaro o di un leone che hanno mirato una preda e sono lanciati nell'afferrarla. Sono talmente concentrati sulla preda che ogni altra cosa intorno è come se non esistesse. Anche se voi faceste un urlo, ormai sarebbe troppo tardi. Noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi dei limiti, delle regole, che li indirizzano verso una sessualità responsabile e sana, anche se loro non comprendono ciò che gli si impone di fare o di non fare. Sono le regole che limitano l'esprimersi della sessualità. Sono le giuste regole che salvano i nostri giovani dalla corruzione, e per certo non il loro e nostro moralismo. Ecco perché la società deve dettare regole morali per i giovani, senza aspettarsi comprensione da essi. Una società che lascia in pasto ai giovani la morale è destinata a subire ogni sorta di ingiustizia. E la ragione. Una volta che i nostri cartelli stradali hanno condotto i nostri giovani alla maturità sessuale in modo puro e sereno, subentra in loro la responsabilità personale. Come gestiranno i nostri giovani la sessualità? Non certamente con le emozioni o il moralismo. Questi sono denti da ratte. Prima o poi cadano, sono inefficaci. L'unica possibilità per evitare la corruzione sessuale è data dalla loro ragione, dalla razionalità, dalla logica. Su questo non ci piove. Quando le nostre emozioni sono imbizzarrite, la ragione e la razionalità sono le briglie che frenano il cavallo. Senza controllo. E l'atto di volontà, che riesce a dominare le nostre passioni distorte, la volontà di non volere compiere ciò che non è giusto. Però, a questo punto, come cristiano, mi rendo conto che, nonostante ci sia la volontà, molti sono schiavi di certe passioni, per cui sono costretto ad aggiungere un'altra R, per debellare in me come nella società, la schiavitù della sessualità. La religione. Per religione non intendo l'espressione formale dovuta ad una divinità, ma l'espressione concreta della fede posta in Gesù Cristo, quale Dio. Poiché a dettare la moralità dovrebbe essere la divinità e non la creatura, va da sé che, per avere una vita conforme alla morale di Cristo, occorre ubbidire ai suoi comandamenti. Eppure quanti ubbidiscono ai comandamenti di Cristo e non sono liberati dalla schiavitù della corruzione? Cosa ci è che non va? È stato commesso un errore di fondo. Gesù non ha chiesto a tutti che i suoi comandamenti siano ubbiditi perché avrebbe commesso un grosso errore. Potrebbe un re obbligare i sudditi di un altro regno ad ubbidire alle sue regole? Potrebbe la regina d'Inghilterra dare ordini agli italiani? Nello stesso modo, se leggiamo attentamente la parola di Dio, Gesù Cristo ha posto delle regole morali solo per coloro che sono passati sotto al suo regno, sì, perché in questo mondo ci sono due regni, quello di Dio e quello di Satana, del maligno. Detto questo, alcune cose vanno al loro posto. Se desideriamo frenare l'immoralità sessuale, sotto ogni forma, per prima cosa, dobbiamo accettare Cristo quale nostro Re, quale Signore, in ogni sfera della nostra vita. Senza questa premessa è impossibile fare dei passi costruttivi. Il fallimento inizia in noi, per proseguire espandendosi nella società. Chi si sottomette a Cristo, accettandolo quale Salvatore e Padrone, sperimenta l'ingresso della sua morale in Lui, Egli ha la mente di Cristo, riceve lo spirito di santità, di forza, d'amore e di autocontrollo. Solo allora riuscirà ad avere il giusto rapporto tra la sessualità e la ragione. Solo allora coniugherà le tre R, regole, ragione, religione, anche se lo farà in senso inverso da quello che abbiamo esaminato fino ad ora. Religione, ragione, regole. La mancanza di questo principio è stato il motivo di ogni nostro fallimento. Però, vi è un però, non è sufficiente avere delle regole dettate dalla ragione della religione. Qualcuno infatti ha calcolato che, ai nostri giorni, almeno 20 milioni di donne siano violentate nella loro natura, con il santo scopo di limitare la corruzione sessuale, essendo sottoposte a mutilazioni sessuali. Per una cultura occidentale ciò è orribile, ma un tale, estremo quanto irrazionale, gesto è anche un monito per chi segue seriamente una fede. Non è sufficiente, quindi, usare la ragione della religione per controllare le aberrazioni nel campo del sesso. Se si desidera vincere l'immoralità, se si vuole una società che abbia il giusto atteggiamento verso la sessualità, individualmente, ognuno deve credere e confessare Cristo quale re della sua vita. Per quanto se ne dica, fra i suoi insegnamenti la regola aurea, data dal re dei re, resterà per sempre amare il prossimo come noi stessi. La sola osservanza di questa regola regolerebbe il giusto rapporto tra la ragione e sessualità, come tra la ragione ed ogni altra circostanza. Cristo non ha istituito una religione di massa con lo scopo di cambiare la società corrotta. Ha invece invitato ogni persona che componga la società, religiosa e non, a cambiare direzione personalmente, andando a Lui che con il suo sangue puro da ogni corruzione, tre volte santo, ha acquistato la vita di ogni individuo della razza corrotta, per comporre una schiera di individui trasformati dalla sua opera in ognuno di essi. Questa è la sola soluzione per guarire un mondo corrotto, per avere una sessualità responsabile, intelligente, sana, costruttiva, per rendere la e una congettura e fanatismo può darsi, ma poiché fino ad ora l'uomo con i suoi progetti, le sue idee, la sua morale, la sua cultura non è riuscito a migliorare la morale della società, allora non gli resta che provare i metodi di Dio. E fino a prova contraria, i metodi di Dio sono sempre riusciti. Dicembre 2003. Ellero